Buonasera e benvenuti ai Colori dell'Anima. Qui con voi c'è Carla, la voce, e allo studio sono Angelo. Buonasera. Stasera siamo pieni zeppi di ospiti. Abbiamo anche Giampaolo alla regia e all'ufficio tecnico. Al nostro nuovissimo ufficio sala informatica. Quindi contattateci, mettetevi in contatto con noi sulla pagina Carla e Angelo, su Facebook ovviamente. Sì, vai, facciamo i consueti presentazioni del sito, numeri di telefono, email. Allora, potete ascoltarci in streaming, anche se è un po' paradossale, perché se ci ascoltate non avete bisogno dell'indirizzo, ma è radioalma.eu. Giusto Angelo? Sì, benissimo. Il nostro numero di telefono è lo 02 345 26 56 e questa è Radio Alma e i Colori dell'Anima. Ma di che parleremo oggi? Beh, allora, eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Quanti sogni e quanti desideri sono cominciati proprio lì, seduti attorno a un tavolo di un bar, di una pizzeria, chiacchierando con amici. Quante volte ci siamo detti vorrei cambiare questo, quello, partire, andare lontano, ricominciare, cambiare il mondo, perché no, partendo dal mio mondo. Ed è di questo che parleremo oggi, e per introdurre questo tema ci piacerebbe cominciare con questa bellissima canzone. Eravamo quattro amici al bar. Ben ritrovati qui a Radio Alma e in particolare i Colori dell'Anima, e qui in studio c'è Carla, Angelo e Giampaolo. Sì, Giampaolo sta nella nuova sala informatica di Radio Alma e gli diamo subito la linea per poterci, diciamo, un po' metterci in aggiornamento, dove scrivere, che cosa postare. Giampaolo, a te la linea dalla nuova sala informatica. Allora, bentrovati amici di Radio Alma, amici dei Colori dell'Anima. Io sono dentro questa nuovissima sala informatica, sono pieno di schermi che lampeggiano da tutte le parti. Veramente sentiamo il rumore, deve essere un qualcosa di assurdo. Guarda, è qualcosa che voi umani non potete neanche lontanamente immaginare. Qua è veramente la tecnologia più avanzata. Ricordiamo ai nostri telespettatori dove poterti iscrivere, quali canali tu sorvegli. Allora, noi siamo in diretta, simultaneamente la trasmissione in radio, sulla pagina Facebook Angelo e Carla On Air, e vi ricordiamo che ci potete scrivere, mettere mi piace, postare i vostri pensieri, i vostri consigli, parlarci del nostro argomento, e noi vi risponderemo in diretta, vi possiamo anche salutare, quindi vi invito a scrivere, come sempre, numerosissimi. Già vedo che ci sono alcuni di voi che hanno messo mi piace, che hanno cominciato a commentare qualcosa, quindi vi aspettiamo e ci aggiorniamo nel corso della puntata. Ok, noi Giampaolo ti salutiamo dalla tua postazione, sentiamo i computer che macinano, e quindi ti salutiamo. Ciao Giampaolo, noi torniamo in studio da Carla, ciao! E allora, come dicevo, siamo pieni zeppi di ospiti, e che ospiti stasera, e parto subitissimo presentandovi alla mia sinistra Rosanna. Sì, Rosanna, devi avvicinarti al microfono e forse devi mettere le cuffie in testa. Ecco, ci sono, voi dovete sapere che siamo tanti in studio oggi e siamo molti, quindi abbiamo carenza di cuffie, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo messo le cuffie in testa e via, a te la parola. Salve, buonasera a tutti. Ecco, benissimo, Carla, sarebbe il caso che tu forse ti prendessi le cuffie per piacere e che continuassimo la trasmissione in un modo normale qui su Radio Alma 101.9. Devi sapere che qui siamo in Africa, stiamo rasentando i 50 gradi, sudiamo ovunque e siamo in piscina ormai. Ok, immaginati il nostro amico Giampaolo nella sala... nella sala informatica. Benissimo, allora rinsavendomi, siamo qui in compagnia con un agente contrattuale di un gruppo politico qui a Bruxelles, di un assistente parlamentare, e finalmente siamo riusciti ad avere due stagiste parlamentari. Ne abbiamo parlato a lungo, si parla spesso di Bruxelles come città degli stage per eccellenza, e quindi abbiamo scelto di invitare queste due ragazze che gentilmente sono venute, e quindi abbiamo Maria e Daniela. Ciao a tutti, grazie per l'invito in primis, perché comunque è il piacere nostro di essere qui e poter raccontare della nostra esperienza come stagiaire, come si dice qui a Bruxelles. E io sono Maria e sono qui a Bruxelles da novembre e okay. Sono assistente, sono stagiaire per l'assistente parlamentare Rosanna. E niente, la mia esperienza d'impatto, diciamo che Bruxelles d'impatto è una città che non si fa amare subito, è una città da scoprire, è una città... Poi sei arrivata in autunno, sì, quindi... a godersi il freddo, diciamo. Poi venendo giù da sud Italia, quindi il calore l'ho un po' perso per strada. però è da scoprire, come ti dicevo, perché comunque è piena di cose da fare e quindi... bisogna vederla, insomma. Che cosa hai trovato di nuovo, di diverso? Beh, molto diversa, è molto una città molto internazionale, quindi c'è veramente di tutto, si può trovare di tutto. Io poi per esempio mi sono integrata subito, perché ho scoperto della Zinneke Parade, è una cosa che è molto brusselloise. C'è stata la settimana scorsa. Sì, sì. Per i napoletani all'ascolto, non dovete andare, cioè non sono donne nude con le zinne da fuori che vanno in giro per la città, No, anzi, però potrebbero esserci per la Zinne, che tutto è a tema. Poi quest'anno il tema era il disordine, quindi diciamo che è molto a tema con Napoli. Esatto. No, però, e quindi diciamo che ho trovato anche un modo di integrarmi subito, ho avuto proprio d'impatto questa internazionalità, questa multiculturalità di Bruxelles, che è una delle cose che compensa, diciamo, il grigiume climatico. Ok, grazie Maria. E poi volevamo presentarvi anche Daniela. Salve a tutti, io sono Daniela, un'altra stagista del Parlamento con Marianna o Rosanna, perché stasera insomma scusa. Stato un cambiamento. Con me a colpa, il calore. E con Maria, diciamo che io sono qui da poco, da un mese e mezzo all'incirca, anche se in realtà il mio è un ritorno qui a Bruxelles, perché sono stata 4 anni fa, sempre per un tirocinio, perché diciamo la verità, non è solo Bruxelles, la città dei tirocini è un po' il mondo che va così, comunque diciamo che oramai i tirocini insomma sono comunque delle esperienze che dobbiamo per forza fare, imprescindibili. Però devo dire la verità che questa volta mi sono trovata molto bene, anche rispetto alla mia prima esperienza mi trovo bene, ho ritrovato qui a Bruxelles quella vivacità culturale, anzi multiculturale, come ben sottolineava Maria, quindi è stato un piacere ritornare. Insomma, spero di poter godere anche di questi ultimi mesi. E l'altro stage che avevi fatto era nello stesso ambito? No, non al Parlamento Europeo, però diciamo che sempre mi occupavo di relazioni con le istituzioni europee, però con il Comitato Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni, però insomma più o meno sempre diciamo nello stesso ambito mm-hmm. europeo, perché è linea con i miei studi, quindi è quello che vorrei fare, diciamo, ed è per questo riparleremo magari dopo delle vostre scelte, il momento in cui si è accesa la lampadina, vi siete dette ok, si parte. Ma adesso vorrei presentare non Rosanna ma Marianna, mea culpa, scusami, quindi assistente parlamentare. Si è messa le cuffie in testa, ecco, sì, ce l'abbiamo. Sono pronta. Sì, buonasera a tutti, io sono qui da qualche anno, sono quasi 4 e ci sono arrivata un po' per caso, un po' perché l'Italia non offriva nemmeno uno stage per me all'epoca e ci sono rimasta con qualche sacrificio, qualche difficoltà, però insomma adesso il bilancio è più che positivo e insomma sono anche molto contenta e soddisfatta di quello che ho realizzato, non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto nelle amicizie e nel clima umano che ho incontrato. Sei integratissima, mi è sembrato di capire, in 4 anni comunque hai tutta una rete di attività extralavorative che ormai hai. Sì, io credo che sia importante soprattutto questo quando andiamo in un paese straniero. Io venivo anche da un'altra esperienza di 2 anni in Francia e credo che sia fondamentale cercare di vivere questi periodi, che anche se sono di passaggio, come non una parentesi ma come un diciamo uno spostamento in un altro paese, che non significa interrompere la vita che noi avevamo vita prima, vera, ma continuarla solo in un altro posto, cercando di approfittarne il più possibile. Diciamo che poi Bruxelles è una città che un po' si odia o si ama, a volte si soffre anche il fatto che questa mobilità è un po' eccessiva, perché molti ragazzi vanno via. Io nel corso di questi 4 anni ho visto molti amici, cari andar amici, via, sì, hai ragione. Andare via, rientrare in Italia, alcuni di questi sono tornati fortunatamente con nuove esperienze, nuove soddisfazioni, nuovi percorsi di vita. Altri continuano in Italia, però è bello, insomma, io dico sempre che Bruxelles è un crocevia. Ci si incontra, si sta insieme, si riparte insieme, si torna insieme. Mm. E auguro, insomma, anche a chi è arrivato da poco come Maria e Daniela di poter alla fine avere un bilancio sempre in positivo. Quanto è vero quello che hai detto, mi ci ritrovo. sante parole. Dulcis in fundo, Eleonora, agente contrattuale di un gruppo politico. Sì. Buonasera a tutti, sì. Arrivata Buonasera. Qui anche tu nel 2009. Nell'ottobre del 2009, sì, all'inizio della legislatura. È stato un anno assurdo, cioè conosco il 50% delle persone che conosco a Bruxelles sono arrivate nel 2009. Che cosa è successo nel 2009? Ma io sono arrivata qui pochi mesi dopo aver finito un'esperienza a Strasburgo, quindi un'altra città, diciamo, importante per l'Europa. E devo dire che mi aspettavo di fare questo stage, perché anch'io ho iniziato come stagiaire a Strasburgo, e invece per una serie di coincidenze sono arrivata a Bruxelles, e ero un po' impaurita perché dicevo oddio, un'altra nuova città, comunque una città più grande, e all'inizio l'impatto è stato un po' difficile sicuramente, perché venivo appunto da Strasburgo, una città molto ordinata, piccolina. Sì. E arrivare a Bruxelles comunque catapultata, devo dire, perché è stato proprio così, in un quartiere diciamo difficile, mi ha messo un po' paura. Però fortunatamente questa sensazione è durata poco tempo, perché poi, come in tutte le cose, quando si cominciano a conoscere si perde anche quel timore iniziale, credo. E quindi sì, 2 anni e mezzo sono passata attraverso le varie tappe, stagiaire, assistente parlamentare, adesso sono con un gruppo politico, e posso confermare tutto quello che hanno detto le altre ragazze. E, chi vorrei... piace acconsente, sei d'accordo? Esatto, sì, sì, sì, non voglio essere ripetitiva, però una cosa che ci terrà a sottolineare è che mi piace tantissimo Bruxelles perché è una città giovane, perché quando esco vedo tanti giovani. E questo secondo me compensa un po' alla tristezza del clima, non lo so, il fatto di vedere così tanti giovani mi mette molta allegria. Diciamo che ci si sente capiti un po', siamo tutti nella stessa barca. Sì, esatto. E tu vieni da? Ah, io sono della provincia di Treviso. Benissimo, mentre qui tutte le precedenti erano avellinesi, giusto? Sì, confermo. Avellino e provincia. Benissimo. E Angelo, mi sembra che volevi lanciare una canzone. Sì, voglio lanciare Stars in Your Eyes di Just Jack. Buonasera e ben ritrovati ai Colori dell'Anima su Radio Alma. Qui in studio Giampaolo, Angelo ed io sono Carla. E abbiamo tantissimi ospiti e stiamo parlando del mondo, il mondo che si cambia. In quanti modi si può cambiare il mondo? Ci sono dei posti in cui diciamo che cambiare il mondo è un po' più facile, diciamo che si hanno un po' più di strumenti, ed è per questo che abbiamo stasera in studio 2 stagiste parlamentari, una assistente parlamentare e un agente contrattuale di un gruppo politico. E mi piacerebbe dar la parola di nuovo a Daniele e Maria per chiederle quando si è accesa questa famosa lampadina, quando è che vi siete dette ma sì, ci provo, parto, faccio la valigia. Sì, in realtà io sono, diciamo, in viaggio da un bel po' di tempo, non solo da un mese e mezzo come ho detto prima, ma sono partita, diciamo, lo scorso luglio per andare in Inghilterra, perché in primis ho sentito l'esigenza di perfezionare, insomma, la mia conoscenza dell'inglese. Dopodiché, conclusasi quell'esperienza, mi sono detta: va bene, ritorniamo a Bruxelles, ritentiamo insomma a Bruxelles, perché ecco, avendo insomma studiato a lungo scienze politiche, quindi Unione Europea, istituzioni europee. Dove diciamo, hai studiato? A Daniela. Napoli. Okay. Quindi anch'io vengo dal caldo, dal caos, come ricordava Maria, per ritrovarmi insomma qui, che invece è una città. La Federico II? No, l'Orientale. L'Orientale, sì, scienze politiche all'Orientale. E insomma, quindi diciamo che sono in viaggio da un po' di tempo, quindi la mia valigia è sempre pronta, in realtà è sempre lì dietro la porta, perché da un momento all'altro potrei andare chissà dove. Ora mi ritrovo a Bruxelles, tra qualche mese non si sa. Ecco, quindi dicevo, più che altro l'idea di venire a Bruxelles è maturata così, insomma un po' per caso. Sono entrata in Italia, sono stata un mese e poi mi è stata data, devo dire, l'opportunità, perché ecco, non è soltanto una decisione personale, ma molto spesso è anche una questione di opportunità, ed è questo che a volte ai giovani manca, perché le idee sono tante, le passioni anche, ma molto spesso manca la possibilità di concretizzare tutto. Ecco, ciò. Per esempio, qualche minuto fa ci diceva Marianna: per me in Italia non c'era nessuno stage disponibile, possibile. Questo è paradossale. No, addirittura ha ragione. Sono laureata, non fa niente, faccio uno stage, neanche quello. No, ha perfettamente ragione Marianna, perché attualmente è difficile trovare anche uno stage non retribuito. Perché diciamo che lo stage oramai è diventata un'arma a doppio taglio: da un lato è una necessità, come dicevo anche prima, perché è proprio una condizione sine qua non, senza stage non si ha esperienza lavorativa, quindi il curriculum non vale nulla. Però dall'altro a volte consente anche ad aziende, soprattutto a privati, devo dire questo, perché nel pubblico è già un po' più raro questo discorso, però a privati di sfruttare comunque voglio dire manodopera qualificata, perché attenzione, comunque attenzione, la linea deve essere ceduta alla sala informatica, perché abbiamo dei messaggi dall'etere. Pronto, qui è la sala informatica ipertecnologica di Radio Alma e io intervengo per salutare Elisa Bazzicalupo e tutti i ragazzi della seconda G di Orte di Atella che ci seguono sempre. Ciao Elisa, ciao ragazzi. E volevo salutare anche Carmelo, che è un nostro assiduo ascoltatore. Ciao Carmelo, e anche Giorgiarra, che so essere all'ascolto. E io vi ricordo anche il numero di telefono per inviare sms in diretta, in trasmissione, è lo 00 32 47 14 07 804. Lo ripeto, 00 32 47 14 07 804. Tombola, ti richiudiamo nella sala internettiana. Ciao, a te la linea Carla. Salutiamo quindi tutti i nostri amici che ci scrivono, grazie Giampaolo per il collegamento. E adesso la parola a Maria, quando si è accesa questa famosa lampadina. Ma diciamo che anche per me, come per Daniela, la valigia è sempre pronta, quindi ho sempre la valigia dietro la porta e non si sa mai dove il vento mi porterà, come si suol dire. Però per Bruxelles è stata un po' il fato, insomma, mi sono ritrovata in realtà, più che per scelta, per una serie di circostanze che si sono create, quindi ho avuto molta fortuna di trovare questo stage, in più di lavorare con Marianna e con Daniela, che veramente, con le quali ci troviamo in sintonia totale, e dalla quale per esempio con Marianna io mi ritengo fortunata, perché questa è la mia prima esperienza di stage e sto imparando veramente tantissimo. Non ho avuto nessun tipo di disagio, nessun tipo di schiavismo, come si dice insomma su questo tema. Però, sì, perché quante volte insomma si arriva come stagiste e quindi stagiste normalmente uno non dovrebbe sapere, dovrebbe imparare, ma viene dato per scontato. Ma come questo non lo sai fare, e quindi ci si sente un po' in difficoltà. Un po' fuori luogo anche. Invece questa cosa per fortuna non l'ho ricreata. E poi mi volevo regare anche un po' al discorso che faceva Daniela sulle opportunità che stanno in Italia per i giovani, che non c'è neanche l'opportunità di trovare uno stage non pagato. E in realtà vorrei anche sottolineare che non c'è neanche l'opportunità per i giovani di fare qualcosa, perché io per esempio con degli amici dell'università, partendo appunto dal presupposto che non riusciamo a trovare niente, né stage gratuiti, nessun tipo di opportunità, abbiamo detto allora creiamocele da soli, e abbiamo fondato un'associazione come si chiama? Un po' di Interna, se vi trovate a Napoli venite da Interna. È un'associazione di promozione sociale, cerchiamo insomma di promuovere il concetto progetto di Glocal e quindi di portare l'internazionalità a Napoli. Per come? Attraverso diverse attività, ad esempio a Natale abbiamo fatto degli eventi nei quali abbiamo fatto una specie di giro del mondo per i bambini, abbiamo cucinato diversi dolci per ogni continente, abbiamo insegnato Dai. Come si festeggiava il Natale nelle diverse culture, in modo tale da avvicinare... Benissimo, mi sembra proprio un ottimo momento per tagliare in due la trasmissione e per parlare poi magari di questo bellissimo argomento nella seconda parte. Adesso vi lascio alla Angelo Gregorio Band con Voglio una donna, e vi ricordo che l'Angelo Gregorio Band, di cui io sono il cantante e compositore, sarà in concerto a Charleroi, esattamente a Montigny-sur-Sambre, questa domenica 3 alle ore 19. Voglio una donna, la Angelo Gregorio Band. Mariano, grazie per il tuo contributo, perché ci apri una nuova pista. Diciamo che tutto parte dall'amicizia, dalle tavolate, perché da solo il mondo non si cambia, non siamo onnipotenti, non lo possiamo cambiare da soli, e tutto parte soprattutto dalla solidarietà, nel senso anche semplicemente di amicizia. Quando ci si sostiene vicendevolmente, i progetti diventano molto più forti e volano molto più alti. Beh, sicuramente è vero quello che ha detto Mariano. E poi, dai, diciamoci la verità, davanti a un bel piatto di pizza si ragiona sempre bene. Un bel piatto di pizza, una bella birra fresca. E secondo me è il momento migliore in cui si può veramente ragionare e parlare di futuro. Parlare di futuro nel senso di stare insieme, condividere qualcosa e magari ragionare un po' su quello che può essere il bene comune, il bene un po' di tutti. Sì, perché dallo scambio poi che vengono fuori le migliori idee, perché l'input lo dà un input viene da qualcun altro, e nel mélange, come si dice in francese, viene fuori, poi vengono fuori le migliori idee, viene fuori un qualcosa di costruttivo, di nuovo, di innovativo, di più. Ok, io direi che con la pizzeria riproviamo tra alle 21:45. Nel frattempo abbiamo tutti questi ospiti in studio. Dai, entriamo nel vivo. Questi ospiti cambiano il mondo, lo cambiano per davvero, lo cambiano in meglio. Che cosa fanno per cambiarlo? Eleonora, ti abbiamo sentito a inizio puntata. In che cosa pensi di cambiare il mondo, il tuo mondo, il mondo in generale? Allora, che grande domanda. Ma magari no, magari dici no. Io non lo so, sono piccina, sono da sola, è ovvio, non si può cambiare il mondo così, però ecco, quello che posso dare al mondo, questo lo so, forse una piccola cosa che posso dare al mondo è forse il mio entusiasmo. Mi fa piacere essere qui e vorrei in qualche modo poterlo trasmettere a tutte le persone che pensano di non avere una chance, di non avere un futuro anche lavorativo. Io sono stata molto fortunata e quindi vi invito a rischiare, perché secondo me è dal rischio che inizia tutto. Io ero in Erasmus a Strasburgo e vedevo tanti amici che facevano uno stage al Parlamento Europeo e mi sembrava una cosa grande, dicevo no, è impossibile. E poi così parlando mi hanno detto ma perché non proviamo a dare una mail con il tuo curriculum, così, e da lì è cominciata questa avventura. Semplicemente hai mandato dei curricula ai deputati europei e scoprendo che in fin dei conti tentare non nuoce, anzi al contrario, può portare delle grandi possibilità. E mi ricordo che ero a Strasburgo, e perché avevo scelto Strasburgo? Proprio perché mi ero trovata per caso in questa città e c'era la festa dell'Europa, quindi c'era il Parlamento porte aperte, e ho visitato il Parlamento, ho detto beh, è qui che voglio fare il mio Erasmus, e quindi ho fatto l'Erasmus a Strasburgo e poi mi sono ritrovata nella città gemella, quasi, se vogliamo, che è Bruxelles, e dove c'è un'altra sede del Parlamento Europeo, perché come forse voi sapete il Parlamento Europeo ha in realtà neanche due, ma tre sedi, una a Bruxelles. Qual è la terza? E Lussemburgo. Ah, mi mancava. E quindi invito tutti i ragazzi che sono interessati a un'esperienza internazionale a tentare. Provate, il buon momento arriva. Un po' come per dire volere potere? Sì, ma soprattutto l'essere nel posto giusto al momento giusto, ecco. E questo non arriva se non si prova, quindi provate. Diciamo che rischiare non è da tutti, è quello un po' la difficoltà, io penso, no? Di affidarsi al rischio. Cosa c'è dietro una porta che non si è mai aperta? Boh, bisogna provare. Forse il bagno. Però forse più del rischio, secondo me, bisogna affidarsi a se stessi. Io quello che noto adesso, anche confrontandomi con miei coetanei o ragazzi più grandi o più piccoli di me in Italia, che l'avvilimento che si ha, la frustrazione porta a non credere più nelle proprie capacità. E allora io credo che invece più che affidarsi al rischio, perché è vero che noi siamo qui perché abbiamo avuto delle occasioni, però noi abbiamo creduto e abbiamo saputo sfruttarle, cioè le occasioni le abbiamo create perché non ci siamo fermati e abbiamo rischiato, però poi gli abbiamo dato un contenuto a queste occasioni. E questo succede quando ci fidiamo di noi stessi e delle nostre capacità. E quello di cui stai parlando è un concetto che esiste in psicologia e che si chiama autoefficacia, ed è praticamente un concetto che ci consente di credere che siamo efficaci, cioè banalmente è questo, cioè dire io posso farlo, ed è quello che poi veicolerà i nostri apprendimenti successivi, che poi è un circolo vizioso: più tu credi in te, più lo fai, più ti va bene, e quindi più ti autoalimenti tutta la tua carriera. Ed è assolutamente, esatto, io credo che non bisogna mai dimenticare che ognuno di noi ha un talento, cioè ognuno di noi sa fare qualcosa, e questo nasce dal fatto che abbiamo tutti delle capacità. Non è facile a volte capire come applicarle, quali sono le capacità che abbiamo, però penso che appunto un modo per iniziare a cambiare il mondo non è quello di cambiare il mondo fuori di noi, ma è quello di prendere consapevolezza che noi dentro abbiamo un mondo che può essere, insomma, condiviso con gli altri. Grandissima. Arrivato il primo messaggio. Con le arriducidi, il mare ti chiama, il falò di apertura stagione non può aspettare. Qui pace e tranquillità, ma non troppo. Ce n'è a biffte. Ciao Giampi, un saluto da Gioiosa. Ed è proprio con Gioiosa che lanciamo un altro brano, e questo brano è un brano che penso si addica proprio alla trasmissione di oggi, perché è un brano che molti, molti, moltissimi di voi conoscono, ed è un brano bellissimo, lo riconoscerete subito, subito, subito. Ed eccoci ritornati in studio qui ai Colori dell'Anima, 101.9 FM, qui sulle frequenze di Radio Alma. Un saluto a Giulia. Giulia, je sais que tu nous écoutes, quindi un bonjour pour toi. Un bacio a Giulia, che è una nostra ascoltatrice, ci ha chiesto: ti prego, salutami dalla radio, il mio sogno. Quindi, e io saluto anche Eugène, suo marito. Ciao Eugène. Neogenitori, saranno ben presto genitori. Auguri. Bene, noi cerchiamo di ripristinare il collegamento con la pizzeria, e vediamo un po' che cosa succede, perché dovete sapere, noi siamo qui all'avanguardia con questi nuovi, con queste nuove tecnologie. Vediamo un po', perché abbiamo delle domande da porre a queste persone di questa pizzeria, di cui voi dovete sapere, io non mi ricordo mai il nome, ma eccoci qui, dovremmo esserci. Ecco, mi sentite? Sì, finalmente. Eccoci. Ci siamo, finalmente. Eccoci, finalmente ci sentite, benissimo. Allora ragazzi, come va? A sognare a questo punto, visto con questo collegamento così difficile. A parte che ci hai fatto sognare già con la tua canzone. La tua canzone, Voglio una donna. Ah, benissimo. Sentite, anche noi. E te lo dice uno che se ne intende. Sentite, ragazzi, ci ricordate i vostri nomi? Mariano, sì. Marco e Martina. Ah, ciao, benissimo. Allora ragazzi, qui dovete sapere che noi abbiamo in studio dei capoccioni, cioè questa gente cambia il mondo, cambia l'Europa. Ma voi come la vorreste cambiare, l'Europa, il mondo? Quali sono le idee che vi vengono in mente? A me ne vengono in mente tante quando mangio la pizza, onestamente. Ma voi, vai, fiato alle trombe. Ma l'Europa dovrebbe... si professa senza frontiere, ma io sento che ancora qualche frontiera c'è, forse più di una. L'aspetto economico è quello che ci divide maggiormente, sentiamo parlare sempre di PIL, di spread, di cose, insomma, si vorrebbe non sentire più parlare di queste cose. Soprattutto quando poi queste parole sembrano parolacce. Sì, sembrano delle parolacce, e sono effettivamente delle parolacce, perché sono partorite da menti che probabilmente hanno ben altre cose tra le mani, insomma. Ecco, vorremmo un'Europa più Europa, veramente. Ho capito. Benissimo. Sentite, ma parlateci un po' di voi. Per esempio, tu con questa voce bellissima, calda, radiofonica, parlaci un po' di te. Che cosa fai nella vita? È una voce che mi ha gratificato molto nella mia vita, devo essere sincero. Beh, in quali sensi? Perché questi sensi, quello che dici è anche un po' equivoco. Dunque, io sono il titolare di questa pizzeria. Ah, ok. Da parecchi anni. È una pizzeria del popolo, veramente è una pizzeria molto... E il nome, dai, di il nome. La pizzeria si chiama Pizzeria Erpanonto. E dove sta? Sta a Garbatella. Garbatella, che è un quartiere che sta diventando sempre più giovane perché è influenzato dall'Università Roma 3. È un quartiere che sta prendendo sempre più vita, è molto dinamico, ha davanti un teatro, il Teatro Palladium, che è diventato di Roma 3, appunto, dove si tengono spettacoli a volte forse un po' troppo alternativi, ma che comunque dà vita, dà lustro ad un quartiere che era stato concepito solo ed esclusivamente come una borgata, ancorché dipinto nei colori della città giardino, come la voleva Mussolini. Senti, ma a noi di cultura non ci frega proprio niente. La pizza più buona della tua pizzeria qual è? La pizza più buona della pizzeria, non lo so, sono tutte buone, cioè è una questione di gusto, insomma. La pecorara è un cavallo di battaglia. Ecco la pecorara, bellissima. C'è anche il crostino Panonto. Il crostino di Panonto. E insomma, vabbè. No, ma a noi la cultura interessa, solo che sai, siamo in collegamento con una pizzeria, alcuni di noi non hanno mangiato, quindi abbiamo una fame pazzesca. Quando capitate a Roma venite a Garbatella, e io vorrei venire a Bruxelles a portarvi le pizze, i supplì. Mamma mia, non fare così. Ce li mangiavo noi prima, poi. Ecco, la voce femminile la sento con la bocca piena, stai mangiando, dici la verità. Bravissimo. Mannaggia. La pasta con le olive. Ma siamo sulla candy camera? No. ragazzi, allora vorrei che ognuno di voi facesse un augurio a questa Europa, alla vostra pizzeria. Non so, ognuno di voi ha 5 secondi per dire un qualcosa e poi chiudiamo il collegamento perché siamo agli sgoccioli. Via. Senti, un augurio io non lo faccio all'Europa. Sì, lo faccio all'Europa, ma lo faccio al mondo. Insomma, benissimo. Lo faccio all'Europa, ma lo faccio al mondo. Lo faccio a questa unica anima, insomma. Ecco, non mi sento di stringerla nei confini. Benissimo. Il prossimo, via. Eccomi. Io vorrei che l'Italia entrasse in Europa, finalmente. Si adeguasse un po' ai livelli europei. E io vorrei mangiare la cosa che ti sei mangiata tu prima. Ah, eri tu, ok. Io via. L'ho mangiata prima. Ha mangiato qualunque cosa. Ah, ok, benissimo. Beata te. Il prossimo. Lo so, c'è chi può. Il prossimo. Io vorrei fare il cantante. Ah, benissimo. Il cantante, non la cantantessa. Vabbè, siamo in periodo di cambiamenti. Uno può cambiare, non c'è problema. Devi imitare la voce da uomo. Ok. Corde vocali. Benissimo. Ragazzi, è stato un piacerone. Quindi voi ci confermate che attorno a una tavola con una buona pizza della pizzeria Erpanonto alla Garbatella si può cambiare il mondo? Assolutamente sì. E allora, romani all'ascolto, per piacere, e anche italiani a Bruxelles, quando andate lì alla Garbatella e sentite quell'odore di pizza, quell'odore di lievito, quell'odore di olio, quello proprio un zevato, però sano, andate alla pizzeria Erpanonto, perché lì si cambia il mondo. Grazie. Perché lì si cambia il mondo con la pizzeria del Panonto. Grazie ragazzi, noi vi salutiamo, ritorniamo in studio da Carla. Ciao ragazzi. Grazie ragazzi, grazie Mariano, grazie Flaminia e grazie all'altra ragazza cantantessa. Grazie mille, ci avete messo di buonissimo umore, oltre ad averci dato un po' fame, un po' tanto, quindi tra poco scappiamo a mangiare, ma prima di scappare a mangiare un piccolo tour de table. Bene, Eleonora, dai, vai. Prego, sono la controfigura. Hai capito? Tant'è che ieri ci siamo vestite uguali, effettivamente. Allora, prima dicevo del percorso che fa ciascuno e soprattutto dell'opportunità che abbiamo. Volevo aggiungere qua una cosa che mi piace molto di Bruxelles, che è ad apprezzare rispetto magari alla realtà da cui vengo e anche altre realtà italiane, sono le opportunità che ci sono non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista culturale, ecco, e soprattutto musicale, visto che comunque è un programma anche collegato con la musica. Quindi grazie Bruxelles e viva la musica che si sente in tutti i bar, molto bella. Grazie a te Eleonora, grazie a te. E c'è dalla sala informatica, è ritornato lì Giampaolo, velocissimo perché abbiamo 6 minuti. Allora Angelo, dalla sala informatica per comunicarti che dopo l'intervento della pizzeria Erpanonto di Roma c'è praticamente tutta l'Italia che vuole mangiare la pizza. Abbiamo tutta una serie di ascoltatori affamati, c'è Antonella che ci scrive dalla Sicilia e dice: mannaggia, mi avete fatto venire voglia di pizza! Grazie, grazie per questo messaggio. E quindi vorrei cedere di nuovo la parola a Marianna. Innanzitutto grazie di essere venuti ragazzi. Siamo noi che vi ringraziamo per questo momento, questa parentesi così conviviale che ci aiuta anche un po' a riflettere su noi stessi e su, ci aiuta anche a ricordarci quanto siamo fortunati e quanto siamo contenti di questa esperienza a Bruxelles. Io faccio un saluto veloce a tutti, a voi che ci ascoltate dall'Italia e da Bruxelles, agli italiani cosiddetti espatriati, che è questa comunità un po' anomala di immigrati della nuova generazione a Bruxelles, con l'augurio che insomma fra una settimana noi festeggiamo la festa del 2 giugno da italiani all'estero, con l'augurio per il nostro paese, l'augurio per tutti i nostri coetanei di continuare a credere in se stessi. E mi piaceva ricordare anche quello che hai detto prima, quindi di vivere l'espatrio come vita vera, non come parentesi, ma quindi viverla... Esatto, di viverla, di approfittarne come un momento di vita che continua, non interrompe quello che abbiamo lasciato a casa, ma è la vita che continua, nuove forme, con nuove evoluzioni, nuovi incontri, quindi piena di cose da prendere e credere nel proprio talento. Esatto. Grazie mille Marianna, la parola a Maria. Anch'io volevo semplicemente dire che bisogna credere in se stessi, osare e buttarsi in tutto, perché in realtà il destino ce lo facciamo noi, ce lo creiamo, e le occasioni, come dicevano anche loro, si creano. La fortuna va aiutata, perché le occasioni non piombano dal cielo se si sta fermi o ci si abbatte, ma bisogna veramente osare e non farsi abbattere della situazione che c'è in Italia, non avere paura di andare fuori e di provare cose nuove, perché il nuovo è bello. Sembra uno slogan, ma è così. E la parola a Daniela. No, volevo soltanto aggiungere insomma tutte queste riflessioni, che sicuramente scoraggiarsi, insomma abbattersi, voglio dire, è un qualcosa anche di normale, però poi bisogna riemergere. E voglio soltanto concludere con questa parola che mi è stata detta da un padre comboniano: coraggio, e quindi non rassegnarsi, perché la rassegnazione, ahimè, al giorno d'oggi pesa più della disoccupazione. Si parla tanto di disoccupazione, ma invece secondo me bisogna riflettere più su questo aspetto. Ok, arrivederci a tutti. grazie mille Daniela. Volete veramente cambiare il mondo? Leggete il libro La formula del cuore di Catherine Reid Hyde e poi mettete in pratica il suggerimento alla lettera: provare per credere. Rosy, va bene Rosy, lo faremo, soprattutto grazie, quando Rosy avremo la pancia piena. Giampaolo, hai qualche nuovo saluto, nuova notizia in collegamento, commenti? Beh, io saluterei ancora una volta i ragazzi della seconda G di Orte da Tella, che sono sempre fantastici. Presenti, sono ciao, sempre ragazzi. Fantastici, e tutti i nostri ascoltatori più affezionati: Carmelo, Giorgiarra, Antonella, Christian e tutti quelli che ci seguono sempre con affetto. Io mando un grande abbraccio a tutti. Grazie mille, e li salutiamo anche noi vivamente. Di nuovo salut Giuliano. Sì, salutiamo quindi Giampaolo. Grazie per il tuo aiuto lì nella sala informatica. Grazie mille. Ci connetti al mondo, grazie mille. E beh, da Radio Alma è tutto, questi sono i colori dell'anima. Il colore di questa serata, perché sapete che i colori dell'anima si chiama appunto così, perché in ogni trasmissione scegliamo un colore che rispecchia meglio il tema in questione, e boh, io parlando di pizzeria, di cambiamenti eccetera, mi viene in mente il rosso della salsa della pizza. Angelo, siete che dici? Tutti d'accordo, il rosso va bene? Sì, possiamo... sì, rosso passa all'unanimità. La passione per la vita. Benissimo, allora possiamo scriverlo sul sito, Angelo e Carla, il colore è il rosso. Benissimo, e un grandissimo complimento per la vostra piacevole trasmissione. Saluti per Angelo, Carla e Giampaolo. Non si firma, ma vabbè, non fa, fa lo stesso. Allora, vogliamo ricordare, Carla, quando ci rivediamo? Il nostro prossimo appuntamento, ovviamente, I Colori dell'Anima è in onda tutti i lunedì dalle 9 alle 10, ma con me, Angelo e Giampaolo sarà l'ultimo lunedì del mese di giugno. Quindi il 25 giugno saremo di nuovo in onda. Quindi alle 21, il 25 giugno saremo di nuovo tutti e tre qua. Sì, risalutiamo, quindi abbiamo avuto in studio Eleonora. Ciao. Grazie Eleonora. Poi chi abbiamo avuto? Maria. Ciao a tutti. Daniela. Un saluto a tutti. Marianna. Ciao a tutti. Grazie mille Giampaolo, grazie mille Angelo. E qui da Radio Alma è tutto. Non è proprio tutto. Com'è non è tutto? No, ricordiamo ancora le nostre frequenze 101.9, la nostra pagina facebook.com/angeloecarla. Il nostro nostro sito è sempre aggiornato con foto e curiosità. E saprete in anticipo il tema della nostra prossima puntata. E a breve sarà disponibile anche il podcast. Quindi controllate il sito radioalma.eu/colori dell'anima e troverete il podcast. Per oggi questo è tutto, noi vi salutiamo, Angelo e Carla. Tutto. Ciao ragazzi, ciao.